Ragazzi, poche raccomandazioni, per chi non avesse la Rastinghe cercasse di tenere alto quanto con i calderotti. Vi ricordo che vi date indossare monete di qualsiasi natura, quindi con la mia braccialetti, sia di metallo che di plastico o di gomma. Vi ricordo che l'unica persona che può chiedere spiegazioni al sottoscritto a gioco fermo è il capitano, tanto gli altri massimo silenzio e massimo rispetto anche nei confronti dei vostri avversari. Vi dico un'altra cosa. Io sono una persona che ama andare sul campo e uscire con quante meno munizioni di espressione possibile, però questo dipende soltanto da lui, non da me. Io in alcun momento sono costretto a fare il mandato. Quindi se c'è rispetto, riuscite a collaborazione tra di voi, nei confronti dei vostri avversari, nei confronti della vostra. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. San Lorenzo padrone di casa che con 5 punti di distacco non può fallire la prima resa dei conti stagionale e come da copione la squadra di Panzi parte con il piede pigiato sull'acceleratore collezionando calci d'angolo. Sullo sviluppo di uno di questi, Ussia, sempre lui, scarica un tiro cross al veleno che scuote il palo. Per Soresi un primo indizio circa un pomeriggio che sembra profilarsi assai intricato. La capolista però risponde e dall'altra parte Giarola fa il pieno di applausi, prima disinnescando un missile di Spassera, successivamente anticipando lo stesso centravanti con una felina uscita bassa assai coraggiosa. Guardo il cielo e penso che non c'è vita senza te. E dopo una partita mi hai rubato la vita. Rivedendovi griderò e al Barletta canterò. E la mia vita è sempre accanto a te. Ovunque andrai non ti lascerò mai. Forza Barletta, sempre accanto a te. devo dire grazie a tutta la squadra per questa vittoria, tutto il campionato. Abbiamo sudato, abbiamo sputato sangue. E la giornata di oggi, questi sono stati i risultati. Come l'hai preparata questa partita importantissima che vi porta in seconda? Acqua naturale, casa il venerdì sera. L'ho preparata così, ragazzi. Sulla destra, Vincenzo Maratia, sarà a centro per Nicola, lancio lungo per Vincenzo, Nicola, forse è troppo lungo, ma Vincenzo ce la fa Vincenzo, Nicola a centro, Titti, gol! Bisognava andare sulla scorsia, attenzione alle ripartenze, c'è il parente, che chi ti libera già vede, chi se non lui, il divino parente Marino. Vogliamo la rete sfondata sul punto di battuta il nostro barone rosso, pronto a disintegrare la rete, parte il nostro bombardiere. Mi fa un baffo il nostro governatore. Sarà un calcio di rigore e subito l'episodio, il cartellino rosso a Michele Contento. Cosa vuoi che ti dica? Secondo me l'arbitro, un arbitro in seconda categoria, non può venire a Monfalcone e permettersi di non avere la sensibilità di espellere un ragazzo di 40 anni che ci mette il cuore per un rigore netto. No, però diciamo sì, se dai un rigore del genere e mi espelli al terzo minuto, vuol dire che al posto del cuore c'hai una cassa di birra. Ole ole ole, forza Sannese! Ole ole ole, forza Sannese! Forza Sarnese, quando tu scendi in gamba fai dramma, perché ti portessi una cosa grande e mai riuscita non superà. Forza Sarnese, facimmo come cosa la palla, ma poco fa si fece con il suo appena tre. La cosa grande, io corro sta città, Sarnese mia, ole ole, si vince stamma sempre fino a te. Ole ole ole, forza Sarnese, ole ole ole, forza Sarnese. E vivo presidente Pappacina, casito si te sei filato fa, la squadra che ma niente è mai nessuno, a sto paese già saputerà. Ma fa, mischia, mischia la punizione qua, di confusione, ma vedi. Nicola, dritto in porta, spizzica. Stop spizzicata. Fallo laterale per il Marcellino. Con le mani. Grossa. Rumolo. Luigi, Luigi. Luigi, Rumolo. Luigi, è gol. È gol, è gol. Luigi, Luigi Rumolo. Luigi Rumolo. Luigi Rumolo. Luigi Rumolo. Fate l'invasione, fate l'invasione. Fate l'invasione. Ecco. Oh, ma che succede? E che? No! Oh Pietro, vieni qua! Ma sono andato in campo, Fausto! Bruno! Ah. No! Quello lo sapevo io! Non ti fa così, me lo scrivo! It's hard to beat her, 'cause she knows No, tu non sei con me. No, no, no. Molto buono. Ti ribelli che te? Vuoi ribellarti che te? Facciamo un 1 contro 11, mi meno tutti? Facciamo un 1 contro 11? Eh? Perché fate schifo! Perché fate schifo al cazzo, sai no? Avete rotto i coglioni! Avete perso un derby, dovete essere stare, vero no? Per noi è la vita il derby, eh? 3 gol al derby! E manda giù! Dobbiamo perdere Palesaro, basta! Avete rotto i coglioni! Noi ti dire, siamo gravi, mettiamo lì, basta! Fa giocare la primavera o no? O no? Sei d'accordo? Andiamo vicino ad Andrea, dai. C'ho i capelli lunghi 6 metri se diciamo ad Andrea. Andiamo vicino ad Andrea. Ci proviamo, fate schifo. Dite scusate, facciamo schifo. Hai capito? Sì, fate schifo. Lo dite? Già la società è una merda, voi fate schifo, lo sai o no? Ma che no, dai, sono delle merde. Non umiliarli, gli do anche, non umiliarli, vai, vai. Fate schifo, fate schifo, quello che dico, sono qua. Fate schifo al cazzo! Tre gol al derby, dobbiamo perdere, fate schifo alla vita! Parametro zero, impara a prezzo di senso! Non vi siete una figa di partita giusta? Non vi siete un cazzo? Posso dire, ma che continuità avete, non vi siete una figa di niente? Tana merda! Questa curva si colora, unita al cielo bianco-blu, nessuno mai mi ferma più. Quell'orgoglio stretto dentro il cuore di essere nato da un leone che per me combatterà. Queste indescrivibili emozioni me le puoi donare solo tu. Non sarò mai stanco di cantare, onorando questa mia città. Quanti brividi mi dai, non potrei lasciarti mai, sostenendo solo l'Andria. Nella gioia e nel dolore, la mia unica passione è ti fare solo l'Andria. Segnerai un coro al cielo s'alzerà. Quando non ci crede più nessuno e lontana tu sarai, quanti chilometri farei? Sono irresistibili emozioni che mi puoi donare solo tu. Mai nessuno ci potrà fermare. Mai sostenendo solo l'Andria, nella gioia e nel dolore, la mia unica passione è ti fare solo l'Andria. Tanti amici e goliardia, questa maglia è una magia che nessuno può portarmi via. Quanti brividi mi dai quando in campo scenderai. Fare il miracolo, vediamo un pochino di sistema la palla, Giacobbe è fuori, perciò possiamo infilizzare, manca il pilastro centrale del Rocca, attenzione, vediamo, è tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro, vediamo, come si chiama, non mi viene per ora, Bonfiglio, first train tomorrow and yes, until summer. Leaving on that first train tomorrow, and I won't be back. Yes, until summer. My bags are packed and I am ready to go, and I am standing here, yes, outside your door. Ain't gonna wake you up because I don't wanna see you cry. Ain't gonna wake you up, don't wanna tell you goodbye. Leaving on that first train tomorrow, and I won't be back. Yes, until summer. Voi parlate, tu, voi camminate in mezzo a te, contro una squadra di promozione, perché parecchi di voi non possono giocare in questa squadra, nemmeno uno contro un mio contro un finale! Domani vi dico a che ora dovete arrivare a tale. Il primo che chiama sono sui figli di caccia! Contro una squadra di promozione, vergognatevi, voi non siete degni! La squadra di promozione, io vi squarto, se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto, a quando più ci sta, a parlare, siete scandalosi, non siete in grado di superare nell'uno contro uno un giocatore di promozione, siete lo scandalo. Figure di merda come queste della mia vita non le ho mai fatte. nessuno che si permetta il premio da Caspanda, il premio che più porta a Brittia Canada, i vescani si vedono la Canada, il giuro primi di vescani, e metto 10 punti, 10!